Lettera inviata a Trento dalla città pontificia di Viterbo, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 1 gennaio 1547. All'illustrissimo signore mio Giovanni Pietro Carafa in Trento. Signore mio osservandissimo, lo strano fatto di cui mi accingo a riferire merita d'essere ponderato adeguatamente. So per certo che il beneficio di Cristo ha ricominciato a circolare su varie piazze. Negli ultimi mesi è stato acquistato a Ravenna, Ancona, Pescara e anche più a sud, lungo il litorale adriatico. Ciò significa che le partite viaggiano via mare, su bastimenti in grado di trasportare discrete quantità di libri. E non deve trattarsi di poche centinaia di copie, mio signore, ma di migliaia, al punto che riesce difficile credere sia al lavoro una sola stamperia. Data la zona di diffusione, deve trattarsi di qualche stampatore veneziano o ferrarese, di certo residente nei territori di quegli stati che più osteggiano l'ingresso dell'Inquisizione romana. So che l'autorità della Signoria vostra non si estende fino al territorio della Serenissima, ma ciò nonostante potrebbe risultare utile mettere la pulce nell'orecchio degli inquisitori veneziani e del duca Ercole II d'Este. Non credo, infatti, che costoro vorranno dare di sé l'immagine di chi permette la stampa di un libro scomunicato dal Concilio. Cosa strana è che qui a Viterbo nessuno sembra sapere nulla dei responsabili di questa nuova diffusione. Sembra proprio che questa volta il cardinale Polo e i suoi amici non c'entrino. V'è da sospettare si tratti di un'operazione vasta, con una mente brillante a dirigerla, ma estranea alla cerchia degli spirituali. Ebbene, come il mio signore sa, a Venezia trovano rifugio molti radicali criptoluterani. Potrebbe dunque essere utile raccogliere maggiori informazioni sulle loro attività, senza insospettire i veneziani, che, come noto, sono assai suscettibili riguardo alle ingerenze nei loro affari da parte della Santa Sede. Baciando le mani della Signoria vostra, alla sua grazia mi raccomando. Di Viterbo, il giorno primo dell'anno 1547, il fedele osservatore della Signoria vostra, Q.